Noi questa cosa l'abbiamo raccontata in un podcast, si chiama Unchained, storie di ordinario capitalismo selvaggio, nome azzeccato in questo caso, ma a sua volta la prendo da un pezzo il collega Andrea Baranes, che ha studiato la stampa americana che se ne è occupata. Quello che è successo riguarda una mattina in particolare, che era la mattina del 23 marzo, quando a un certo punto sulla borsa di Chicago e su altre borse americane sono arrivate una marea di ordini per un prodotto finanziario particolare, sono i futures, senza stare a entrare in tecnicismi. Qualcuno, non sappiamo bene chi, ha iniziato a scommettere su qualcosa che in quel momento sembrava incredibile, cioè sul fatto che il prezzo del petrolio avrebbe iniziato a scendere mentre sarebbe salito il prezzo delle grandi azioni delle grandi aziende americane. Era una scommessa stupida in quel momento perché il 23 marzo eravamo già in piena crisi energetica, lo stretto di Hormuz chiuso, Trump che bombarda l'Iran, l'Iran che bombarda i pozzi del Golfo. Era una scommessa controcorrente oltre che assolutamente anomala nelle proporzioni. Bene, queste scommesse arrivano attorno alle 6 di mattina. 16 minuti dopo, Trump fa un tweet in cui annuncia che stava trattando con gli iraniani, che andava tutto bene, che stavano per arrivare a un accordo. Quell'accordo, come sappiamo, non c'è mai stato, è una delle tante giravolte di Trump e della sua comunicazione. Ma intanto, almeno per un po', l'effetto è stato esattamente quello che volevano 16 minuti prima questi misteriosi scommettitori, cioè il prezzo del petrolio è calato, il prezzo delle azioni è sceso. Loro hanno avuto modo di rivendere e di farci un sacco di soldi. Può essere una coincidenza? Per carità, nel mondo esistono le coincidenze, ma è una coincidenza curiosa, e cose di questo tipo sono già successe, ad esempio attorno all'attacco al Venezuela. Cioè ci sono diverse situazioni in cui arrivano delle scommesse azzeccatissime, proprio come se queste scommesse le facesse qualcuno vicino a Donald Trump. Ricordiamo ad ascoltatori e ascoltatrici che l'insider trading è una pratica di fatto illegale che prevede appunto la fuoriuscita di informazioni importanti da parte di istituzioni a favorire poi interessi privati. Esattamente, e questa è anche la ragione per cui questo non è solo un tema così finanziario e tecnico, ma è un tema politico. Se sta davvero avvenendo insider trading attorno alle operazioni militari della Casa Bianca, ci sono almeno due scenari inquietanti e che non si contraddicono. Il primo è che, come minimo, vorrebbe dire che consapevolmente o inconsapevolmente c'è almeno un pezzo di apparato della Casa Bianca che sta guadagnando o sta facendo guadagnare i suoi amici dalle guerre che scatena, ed è già qualcosa di evidentemente illegale, oltre che evidentemente, insomma, eticamente riprovevole, qualcosa che un tempo avrebbe fatto cadere un presidente, ma oggi diciamo che lo standard si è piuttosto abbassato. La seconda cosa, qua c'è qualcuno nella stampa americana che inizia ad ipotizzarlo, è che ci si inizia a dire: ma non è che questi interessi finanziari privati addirittura influenzano le scelte della Casa Bianca? Non è che ci sono persone nello studio ovale o nella Situation Room che decidono se bombardare o se non bombardare, se annunciare una tregua o se non annunciare una tregua, anche in base alle scommesse che vogliono fare loro e i loro amici? È solo un'ipotesi, ma se così fosse saremmo in scenari distopici, ovviamente. Questo poi riapre un tema perché non è certo nuovo, che riguarda invece la finanziarizzazione anche di beni essenziali. Oramai anche il cibo e l'energia sono sottoposti a fenomeni speculativi, nonostante siano beni che letteralmente stanno alla base della vita delle persone, no? Assolutamente sì, e questo lo stiamo vedendo con tutto il tema della crisi energetica. L'energia è evidentemente un bene essenziale per la vita. Non a caso bombardare le centrali elettriche in Iran come minaccia Trump sarebbe un crimine di guerra, perché se lasciare un paese senza energia evidentemente impone grandi sofferenze alla popolazione, l'abbiamo visto a Gaza, l'abbiamo visto anche se in modo leggermente meno cruento a Cuba, e senza arrivare a scenari da crimini di guerra, anche dalle nostre parti l'aumento dei costi dell'energia è un enorme problema che poi si traduce in disoccupazione perché le aziende chiudono, si traduce in povertà energetica perché la gente non riesce a tenere accese il riscaldamento o a pagare le bollette, e ha molto a che fare col fenomeno che tu citi. Noi in questo momento in Europa non stiamo ancora soffrendo una scarsità in sé per sé di risorse energetiche, perché lo stretto di Hormuz serve soprattutto ad esportare fossili verso l'Asia, ma stiamo già subendo un aumento dei prezzi per via della finanziarizzazione del mercato energetico. Questi discorsi però mi danno il là per, come dire, affrontare un altro tema di cui tu ti sei occupato sempre su valori.it, che riguarda la sovranità energetica, possiamo chiamarla così, perché vediamo appunto in Europa paesi in difficoltà perché sono spesso molto dipendenti dalle fonti fossili, mentre tu analizzi anche lo scenario spagnolo che se la passa un po' meglio proprio perché ha investito in rinnovabili. Questa crisi energetica è una crisi da dipendenza energetica, cioè noi, quando dico noi intendo sia Europa sia Italia, importiamo fonti energetiche per andare avanti. Siamo dipendenti dall'estero come Unione Europea, ma l'Italia lo è particolarmente, importa oltre il 70% della sua energia, nel senso che importiamo petrolio, gas, carbone che quasi non produciamo e quasi non non abbiamo riserve sul territorio nazionale, salvo appunto quelle poche cose in Romagna o giù al sud. E ovviamente quando sei estremamente dipendente per una risorsa essenziale come l'energia dall'estero, beh, sei dipendente dal prezzo che gli altri ti fanno, e se c'è la guerra, c'è lo stretto di Hormuz chiuso, gli altri ti faranno un prezzone e tu potrai soltanto stare zitto e pagarlo. Questa è la situazione in cui è l'Italia. Noi avevamo già avuto un primo avvertimento di questo, perché la stessa antica cosa era successa nel 2022, quando chiusi i rifornimenti di gas russo siamo stati costretti a prendere gas altrui, ad esempio statunitense, a prezzi molto alti. Era probabilmente una prima occasione per capire che bisognava ridurla questa dipendenza, produrci da soli più energia, ma non l'abbiamo fatto, abbiamo semplicemente cambiato fornitore, iniziando per esempio a prendere molto gas dal Qatar, un paese che consideravamo sicuro, e ora sicuro non è per niente, gas non ne sta più producendo proprio per via di questa nuova guerra. Sono passati solo 3 anni dall'invasione dell'Ucraina, sembra passata una vita. Qual è l'altra strada? Beh, l'altra strada la indica, pur con i suoi limiti e pur con le sue contraddizioni, il governo spagnolo. Sanchez si è vantato da poco, Sanchez, primo ministro spagnolo, di pagare l'energia meno di tutti gli altri, ed è vero, la Spagna la sta pagando particolarmente poco l'energia in questo momento. La ragione è che ormai un lustro fa hanno iniziato ad investire in modo importante sulle rinnovabili e sono oggi il paese europeo, almeno fra i grandi, che ne installa di gran lunga di più. Noi ne abbiamo nel nostro mix elettrico qualcosa come il 50% di gas, da loro il gas è solo il 20%, e quindi per loro è molto meno importante sapere quanto costa il gas ed è molto più importante sapere quanto costano le rinnovabili, il solare, che si producono da soli e che, guerra o non guerra, continuano ad essere disponibili. La Spagna ha investito in questa direzione, noi molto meno, e ne paghiamo le conseguenze. Ti volevo chiedere come ha investito la Spagna, nel senso che se guardiamo i dati italiani nel 2023, a proposito di mix energetico, le rinnovabili, quindi idroelettrico, fotovoltaico ed eolico, avevano toccato il picco del 46%, quindi quasi la metà della produzione energetica italiana, però molto dipendeva, come dire, dall'iniziativa privata e non era lo Stato che finanziava e realizzava impianti di rinnovabili sotto la proprietà pubblica, diciamo così. È un po' diverso in Spagna, come funziona? Allora, dal punto di vista della proprietà, anche la Spagna è un modello molto privatizzato, e infatti gli ecologisti spagnoli insistono su questo, su dire bene che stiamo investendo sulle rinnovabili, ora però facciamo le nostre. Paradossalmente l'attore pubblico più importante in Spagna nel mercato energetico è un attore pubblico italiano, cioè Enel, che ha una quota di mercato in Spagna, e come sappiamo è nella sua volta, diciamo, almeno in maggioranza posseduta dallo Stato italiano. Quello che però sicuramente la Spagna ha fatto, soprattutto in alcuni territori, penso ai territori ex carboniferi, dove hanno quindi chiuso le centrali, chiuso le miniere, eccetera, eccetera, è stato un forte investimento sul tema delle comunità energetiche e della produzione dal basso. Non è solo quella, hanno anche grandi impianti eolici, hanno anche grandi impianti fotovoltaici che sono indispensabili, ma c'è stato anche questo elemento dal basso che è importante, sia in termini di produzione, sia in termini di distribuzione, di accettabilità sociale e di modello economico. Dopodiché, come dicevo, anche la Spagna ha le sue contraddizioni, anche la Spagna ha bisogno di un modello pubblico, e la cosa interessante è che in Spagna se ne sta parlando anche dopo il blackout, vi ricorderete, di ormai più di un anno fa. Alcune forze politiche in Parlamento, penso a Podemos, penso a alcuni degli indipendentisti di sinistra, hanno proprio detto questo: beh, invece di avere un oligopolio elettrico, facciamoci la nostra azienda elettrica. Chissà che non sia una di quelle cose che Sanchez fa come colpo di coda prima di tornare al voto. Anche loro votano fra poco. Certo, in Italia, mi permetto di dire, in questo momento è persino difficile pensare di parlare di questa ipotesi col governo e con il Parlamento che abbiamo.